Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Prima puntata. Questa sarà una storia del terrore. Sarà una storia poliziesca, un noir, un racconto dell'orrore. Ma non sembrerà. Non sembrerà perché sono io quella che la racconta. Sono io a parlare e quindi non sembrerà. Ma in fondo è la storia di un crimine atroce. Io sono l'amica di tutti i messicani. Potrei dire sono la madre della poesia messicana, ma è meglio che non lo dica. Io conosco tutti i poeti e tutti i poeti mi conoscono, perciò potrei dirlo. Potrei dire sono la madre e qui soffia da secoli uno zefiro del cazzo, ma è meglio che non lo dica. Potrei dire, per esempio, ho conosciuto Arturito Belano quando aveva 17 anni ed era un ragazzino timido che scriveva opere di teatro e poesie e non sapeva bere. Ma sarebbe in qualche modo una divagazione. E mi hanno insegnato, con la frusta me l'hanno insegnato, con una bacchetta di ferro, che bisogna evitare le ridondanze e restare in tema. Quello che invece posso dire è il mio nome. Mi chiamo Auxilio Lacouture e sono uruguaiana, di Montevideo. Ma quando mi prende male, quando mi dà alla testa la nostalgia, dico che sono Carrua, che poi è lo stesso, anche se non è lo stesso, e confonde i messicani e quindi anche i latinoamericani. L'importante, però, è che un bel giorno sono arrivata in Messico, senza sapere molto bene perché, né a far cosa, né come, né quando. Sono arrivata a Città del Messico, nel 67, o forse nel 65, o nel 62. Ormai non mi ricordo più né le date né le peregrinazioni. L'unica cosa che so è che sono arrivata in Messico e non me ne sono più andata. Vediamo un po', facciamo mente locale. Tiriamo il tempo, come la pelle di una donna priva di sensi nella sala operatoria di un chirurgo plastico. Vediamo. Sono arrivata in Messico quando era ancora vivo Leon Felipe. Che gigante! Che forza della natura! E Leon Felipe è morto nel 1968. Sono arrivata in Messico quando era ancora vivo Pedro Garfias. Che grand'uomo, così malinconico. E Don Pedro è morto nel 67. Perciò devo essere arrivata prima del 67. Mettiamo allora che io sia arrivata in Messico nel 65. Sì. In definitiva, penso di essere arrivata nel 65. Ma può darsi che mi sbagli. Ci si sbaglia quasi sempre. E ho frequentato quegli spagnoli universali tutti i giorni, ora dopo ora, con la passione di una poetessa e la devozione incondizionata di un infermiere inglese e di una sorella minore che si fa in quattro per i fratelli maggiori errabondi come me. Solo che la natura del loro esodo era ben diversa. Me Nessuno mi aveva cacciato da Montevideo. Semplicemente un giorno avevo deciso di andarmene ed ero partita per Buenos Aires e da Buenos Aires, dopo qualche mese, forse un anno, avevo deciso di riprendere il viaggio perché già allora sapevo che la mia destinazione era il Messico e sapevo che Leon Felipe viveva in Messico e che ci vivesse anche Pedro Garfias. Non ero sicura, ma penso che in fondo me lo sentissi. Forse fu la follia che mi spinse a viaggiare. Può darsi che fosse la follia. Io dicevo che era stata la cultura. È chiaro che la cultura a volte è follia o comprende la follia. Forse fu il disamore che mi spinse a viaggiare. Forse un amore eccessivo e travolgente. E forse fu la follia. L'unica cosa certa è che sono arrivata in Messico nel 65 e mi sono piazzata in casa di Leon Felipe e in casa di Pedro Garfias e ho detto: eccomi qua, al vostro servizio. E loro devono avermi trovato simpatica, perché antipatica non sono. Magari noiosa a volte, ma antipatica mai. E la prima cosa che ho fatto è stata prendere una scopa e mettermi a spazzare il pavimento delle loro case e poi pulire le finestre e ogni volta che potevo chiedevo dei soldi e facevo la spesa e loro mi dicevano con quell'intonazione spagnola così peculiare, con quella musichetta brusca che non li ha mai abbandonati, come se cerchiassero le Z e le C e come se lasciassero le S più orfane e libidinose che mai. Mi dicevano: auxilio, piantala di mettere sotto sopra l'appartamento, auxilio, lascia in pace quelle carte, guarda che la polvere è sempre andata d'accordo con la letteratura. E io mi fermavo a guardarli e pensavo: come hanno ragione. Sempre polvere e sempre letteratura. E siccome allora andavo in cerca di sfumature, mi immaginavo situazioni prodigiose e tristi. Immaginavo i libri immobili sugli scaffali e immaginavo la polvere del mondo che entrava nelle biblioteche, lentamente, pervicace, inarrestabile. E allora capivo che i libri erano facile preda della polvere. Lo capivo, ma non volevo accettarlo. Vedevo mulinelli di polvere, nuvole di polvere che si formavano in una pampa in fondo alla mia memoria e le nuvole avanzavano fino a raggiungere Città del Messico, le nuvole della mia pampa personale che era la pampa di tutti anche se molti si rifiutavano di vederla e il polverone ricopriva ogni cosa, i libri che avevo letto e i libri che pensavo di leggere. E a quel punto non c'era più nulla da fare. Per quanto usassi la scopa e lo straccio, la polvere non se ne sarebbe mai andata, perché quella polvere era consustanziale ai libri, che lì, a modo loro, vivevano o simulavano qualcosa di simile alla vita. Ecco che cosa vedevo. Ecco cosa vedevo in preda a un brivido che solo io sentivo. Poi aprivo gli occhi e appariva il cielo del Messico. Sono in Messico, pensavo, quando ancora la coda del brivido non se n'era andata. Sono qui, pensavo. Allora mi dimenticavo ipso facto della polvere. Vedevo il cielo dietro una finestra, vedevo le pareti su cui scivolava la luce della capitale, vedevo i poeti spagnoli e i loro libri splendenti e dicevo: Don Pedro, Leon. Pensa che strano. Al più vecchio e venerabile davo del tu, mentre al più giovane, che mi intimidiva, non riuscivo a smettere di dare del lei. Lasciate che sia io a occuparmi di queste faccende. Pensate alle vostre cose, continuate a scrivere tranquilli e fate conto che io sia la donna invisibile. E loro ridevano. O meglio, Leon Felipe rideva. Anche se a dire il vero non si capiva mai bene se stava ridendo o schiarendosi la voce. O bestemmiando. Quell'uomo era come un vulcano. Invece Don Pedro Garfias ti fissava e poi stornava lo sguardo, uno sguardo così triste, e lo posava, non so, diciamo su un vaso o su uno scaffale pieno di libri, uno sguardo così malinconico. E allora io pensavo, cos'hanno quel vaso o le coste dei libri dove si arrestano i suoi occhi per risvegliare tanta tristezza? E a volte mi mettevo a riflettere, quando lui non era più nella stanza o quando non mi guardava, mi mettevo a riflettere e addirittura mi mettevo a guardare il vaso in questione o i suddetti libri e arrivavo alla conclusione che d'altro canto non tardavo a scartare, che lì, in quegli oggetti apparentemente così inoffensivi, si nascondeva l'inferno, oppure una delle sue porte segrete. E a volte Don Pedro mi sorprendeva a guardare il suo vaso o le coste dei libri e mi domandava che guardi, Auxilio. E io allora dicevo, cosa? Oppure facevo la finta tonta o la trasognata. Ma altre volte gli chiedevo cose come marginali che però a pensarci bene erano rilevanti. Gli dicevo, Don Pedro, quel vaso, da quando ce l'ha? Gliel'ha regalato qualcuno? Ha un valore speciale per lei? E lui mi fissava, senza sapere cosa rispondere. Oppure diceva, è solo un vaso. Oppure, non ha alcun significato particolare. E allora per quale ragione lo guarda come se nascondesse una delle porte dell'inferno? Avrei dovuto replicare io, ma non replicavo. Dicevo solo, già, già, già. Un'espressione che non so chi mi aveva attaccato in quei mesi, i primi che passavo in Messico. Ma per quanti già uscissero dalle mie labbra, la mia testa continuava a lavorare. E una volta che ero da sola nello studio di Pedrito Garfias, a ricordarlo mi viene da ridere, mi misi a guardare il vaso che lui fissava con tanta tristezza e pensai, forse lo guarda così perché è senza fiori, non ha quasi mai fiori. E mi avvicinai al vaso e lo osservai da angolature diverse. E allora ero sempre più vicina, anche se il mio modo di avvicinarmi, il mio modo di muovermi verso l'oggetto osservato era come a spirale. Pensai, adesso infilo la mano nella bocca nera del vaso. Ecco cosa pensai. E vidi la mia mano staccarsi dal corpo, sollevarsi, planare sulla bocca nera del vaso e avvicinarsi al bordo smaltato, ma proprio allora una vocina dentro di me disse, «Ehi, Auxilio, cosa fai? Sei pazza!» E fu questo a salvarmi, penso, perché subito il mio braccio si fermò e la mano rimase appesa in una posizione come da ballerina morta, a pochi centimetri dalla bocca dell'inferno. E da quel momento in poi io non so che cosa mi successe, ma so bene cosa non mi successe. e sarebbe potuto succedermi. Una corre dei pericoli, è la pura verità. Una corre dei rischi ed è un giocattolo in mano al destino perfino nei posti più impensabili. Quella volta del vaso mi misi a piangere. O meglio, senza che me ne rendessi conto, mi vennero le lacrime agli occhi e dovetti sedermi in una poltrona, nell'unica poltrona che Don Pedro aveva in quella stanza, perché se no sarei svenuta, lo so. E in ogni caso giuro che a un certo punto mi si annebbiò la vista e mi si piegarono le gambe. E quando ormai ero seduta, fui presa da un fortissimo tremito. Sembrava che stesse per venirmi un colpo, e la cosa peggiore fu che la mia unica preoccupazione in quel momento era che non entrasse Pedrito Garfias e mi vedesse in quello stato pietoso. E al tempo stesso non smettevo di pensare al vaso, che evitavo di guardare, anche se sapevo, non sono del tutto scema, che era lì, nella stanza, su uno scaffale dove c'era anche un rospo d'argento. Un rospo la cui pelle sembrava aver assorbito tutta la follia della luna messicana. E poi, sempre tremando, mi alzai e mi avvicinai di nuovo al vaso, penso con il sano proposito di prenderlo e scagliarlo sul pavimento, sulle piastrelle verdi del pavimento. E stavolta non mi avvicinai alla fonte del mio terrore, procedendo a spirale, ma in linea retta. Una linea retta esitante, questo sì, ma sempre una linea retta. E quando fui a mezzo metro dal vaso, mi fermai un'altra volta e mi dissi: se non c'è l'inferno lì dentro, ci sono di sicuro gli incubi. C'è tutto quello che la gente ha perduto, tutto quello che fa male e che è meglio dimenticare. E allora pensai: Pedrito Garfias sa cosa si nasconde dentro il suo vaso da fiori. Lo sanno i poeti che cosa è acquattato nella bocca senza fondo dei loro vasi da fiori. E se lo sanno, perché non li distruggono? Perché non si assumono loro questa responsabilità? Oh, quel giorno non riuscii a pensare ad altro. Uscii prima del solito e me ne andai a passeggiare nel bosco di Chapultepec. Un posto bello e rilassante. Ma per quanto camminassi e ammirassi quello che vedevo, non riuscivo a smettere di pensare al vaso e allo studio di Pedrito Garfias e ai suoi libri e al suo sguardo tristissimo che a volte si posava sulle cose più inoffensive e a volte sulle cose più pericolose. E così, mentre davanti a me vedevo i muri del palazzo di Massimiliano e Carlotta o vedevo gli alberi del bosco moltiplicati sulla superficie del lago di Chapultepec, nella mia immaginazione vedevo soltanto un poeta spagnolo che guardava un vaso da fiori con una tristezza che sembrava abbracciare tutto e mi faceva rabbia, o meglio, all'inizio mi faceva rabbia. Mi domandavo per quale ragione Pedrito Garfias non facesse nulla. Perché il poeta fissasse il vaso invece di muovere due passi, due o tre passi che sarebbero stati così eleganti nei suoi pantaloni di lino ecru, per poi afferrare il vaso con tutte e due le mani e scagliarlo sul pavimento. Pian piano però la rabbia svanì. E mi misi a riflettere mentre la brezza del bosco di Chapultepec, del pittoresco Chapultepec, come ha scritto Manuel Gutiérrez Nájera, mi accarezzava la punta del naso, finché non mi resi conto che probabilmente Pedrito Garfias aveva già rotto tanti vasi, tanti oggetti misteriosi nel corso della sua vita, un gran numero di vasi. e per di più in due continenti. Perciò chi ero io per rimproverargli, anche solo nella mia testa, la passività che mostrava davanti a quello che aveva nel suo studio? E a quel punto del ragionamento cercai addirittura diversi motivi per giustificare la permanenza del vaso. E in effetti me ne vennero in mente più d'uno, ma a che scopo elencarli? È inutile. L'unica cosa certa era che il vaso era lì, anche se avrebbe potuto benissimo essere sul davanzale di una finestra aperta a Montevideo o sulla scrivania di mio padre, che è morto così tanto tempo fa che ormai l'ho quasi dimenticato. Nella vecchia casa di mio padre, il dottor Lacouture. Una casa e una scrivania su cui ormai crollano i pilastri dell'oblio. Così, l'unica cosa certa è che frequentavo la casa di Leon Felipe e la casa di Pedro Garfias e che li aiutavo come potevo, spolverando i libri e spazzando il pavimento, per esempio. E quando loro protestavano, io dicevo: lasciatemi in pace! Voi scrivete! E io mi occupo della logistica. E allora Leon Felipe rideva. Ma Don Pedro no. Pedrito Garfias, com'era malinconico, lui non rideva, lui mi guardava con due occhi che erano laghi al tramonto, quei laghi in mezzo alle montagne, che nessuno va mai a vedere, quei laghi tristissimi e tranquilli, così tranquilli che non sembrano di questo mondo, e mi diceva: non ti disturbare, Auxilio, oppure grazie, Auxilio, e non diceva altro. Che uomo meraviglioso, che uomo integerrimo. Restava in piedi, immobile, e mi ringraziava. Tutto qui. E a me bastava, perché io mi accontento di poco. Questo salta agli occhi. Leon Felipe mi chiamava bella. Mi diceva: sei una ragazza impagabile, Auxilio. E cercava di aiutarmi con un po' di pesos, ma in genere quando mi offriva dei soldi io, indignata, prendevo il cappello alla lettera. Io questo lo faccio per il piacere di farlo, Leon Felipe, gli dicevo. Io questo lo faccio trafitta dall'ammirazione. E Leon Felipe si fermava un attimo a pensare al mio termine. E io allora rimettevo sul tavolo i soldi che mi aveva dato e riprendevo a lavorare. Cantavo. Quando lavoravo, cantavo. E non mi importava se il lavoro fosse gratis o pagato. In effetti preferivo, credo, che il lavoro fosse gratis, anche se non sarò così ipocrita da dire che quando mi pagavano non ero felice, ma con loro preferivo che fosse gratis. Avrei pagato di tasca mia per muovermi fra i loro libri e le loro carte con assoluta libertà. Quello che ero solita ricevere e accettare erano regali. Leon Felipe mi regalava statuine messicane di terracotta che non so dove scovasse, perché anche in casa sua non è che ce ne fossero molte. Penso che le comprasse apposta per me. Che tristezza quelle statuine. Erano così belle, piccoline e belle. E non nascondevano la porta dell'inferno né del cielo. Erano solo statuine fatte dagli indios che le vendevano agli intermediari che andavano a Oaxaca a comprarle per poi rivenderle, molto più care, nei mercati o per le strade di Città del Messico. Pedro Garfias invece mi regalava libri, libri di filosofia. In questo momento ne ricordo uno di José Gaos che cercai di leggere ma che non mi piacque. Anche José Gaos era spagnolo e anche lui è morto in Messico. Povero José Gaos, avrei dovuto sforzarmi di più. Quando è morto Gaos? Credo nel 1968 come Leon Felipe, o forse no, nel 69. E allora, Potrebbe benissimo darsi che sia morto di tristezza. Pedrito Garfias è morto nel 67 a Monterrey. Leon Felipe è morto nel 68. Le statuine che mi aveva regalato Leon Felipe le ho perse pian piano, una dopo l'altra. Ora devono essere sugli scaffali di qualche abbaino o di qualche casa vera e propria del quartiere Napoles o del quartiere Roma o del quartiere Ippodromo Condesa. Quelle che non si sono rotte. E quelle che si sono rotte devono far parte della polvere di Città del Messico. Ho perso anche i libri di Pedro Garfias. Per primi quelli di filosofia e poi, fatalmente, anche quelli di poesia. A volte mi viene da pensare che in qualche modo sia i miei libri sia le mie statuine mi accompagnino. Ma come fanno ad accompagnarmi? Mi chiedo. Mi aleggiano attorno? Aleggiano sopra la mia testa? I libri e le statuine che pian piano ho perso si sono trasformati nell'aria di Città del Messico? Si sono trasformati nella cenere che attraversa questa città da nord a sud e da est a ovest? Può darsi. La notte oscura dell'anima avanza per le strade di Città del Messico spazzando via tutto. Ormai non si sentono quasi più canzoni qui, dove prima era tutta una canzone. La nuvola di polvere polverizza tutto. Prima i poeti, poi gli amori. E poi, quando sembra che sia sazia e che scompaia, la nube torna e si piazza nella parte più alta della tua città o della tua mente e ti dice con gesti misteriosi che non ha alcuna intenzione di muoversi.